La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Passo partenza. Con che asciugliaco le bale? A volte servono i sottotitoli anche alla radio. Cosa ha detto questo signore? Son qui a giocare con le balle. Ma non si capisce, ve lo dico io. Ha detto: son qui a giocare con le palline. Le palline sono le famose click-clack. Perché? Perché ogni volta in cui si dice ti ricordi un gadget estivo, beh, 99 volte su 100 la risposta è come no, le palline click-clack. Che banalità, mamma mia. Non sopporto la banalità. Oggi, alla bella estate, che è il programma in cui noi cerchiamo di capire che cosa vi è rimasto di tutta questa massa di estati che avete vissuto, voglio che mi chiamate per parlarmi di gadget assolutamente inusitati, mai sentiti prima, cose che devono sbalordirmi. Il numero è sempre quello, 800 24 00 24. E comincio io a sbalordirvi, perché basta con le click-clack. Le click-clack sono state questo gioco, vi ricordate, le palline dovevano rimbalzare, ma in realtà l'unico risultato che ottenevate erano dei lividi sui polsi, sulle mani, sulle dita. No, basta. Torniamo indietro. Voglio parlarvi del primo gadget che io ricordo della mia vita. È un gadget che introduco con una canzone di Rita Pavone. La pallina gira con me e mentre giri io salto su te. Era il 1968 e io ricordo che mia sorella, che era piccolissima, bambina di 4 anni, piangeva perché voleva questo gadget. Si trattava di un anello di plastica che voi inserivate in una caviglia. All'anello era legato uno spago, in fondo allo spago una pallina. Dovevate fare girare questo filo con la pallina e intanto saltare con l'altro piede. Difficilissimo da spiegare, molto più facile farlo. Soltanto che dopo tanti pianti mia sorella finalmente ottenne il gadget e poi cominciò a piangere perché naturalmente si era assolutamente impigliata nel gioco, era caduta per terra, si era fatta male e quindi è finita così la follia dell'estate 1968, finita immediatamente. Altre brutte cose che ricordiamo, perché il gadget poi è sempre brutto, dopo è sempre brutto il gadget, ci fa anche così, anche, diciamo, schifo pensarci. Per esempio, quanti di voi pensano con piacere a Ciao? E intendo la mascotte di Italia 90 che per almeno 2 anni abbiamo visto dappertutto, portachiavi, adesivi, pupazzetti, cuscini da spiaggia a forma di questo orripilante pupazzino fatto con dei cubi tricolore e una testa a forma di pallone. Bene, penso che dopo abbiamo dato fuoco tutti ai Ciao che avevamo in casa. Oppure, perché alcuni gadget invece restano nella nostra memoria e altri scompaiono? E questa è un'altra cosa che dovrete spiegarmi sempre all'800 24 00 24. Se io dico marsupio, il marsupio, questo oggetto abbastanza anche osceno che fino a qualche anno fa portavo io mai, voglio dirlo subito, io non ho mai portato un marsupio in vita mia, portavano molti in giro attaccato così per nascondere forse l'adipe, non si sa perché. Il marsupio non ha lasciato traccia simile a quella che ha lasciato il borsello. Se io dico borsello, tutti, ah, il borsello, ridono, solamente di cosa? Di una moda che è andata per un po' negli anni 70, ma che è rimasta nella nostra mente. Cerchiamo di capire anche i perché di alcune cose restano e alcune cose vanno via. Però io non posso parlarvi sempre di me e delle mie vecchie memorie. Io sono una persona ormai anziana, ormai dovrei essere in un centro anziano in questo momento. Parliamone con una persona più giovane, più fresca, molto più hype di me. Selvaggia Lucarelli, pronto Selvaggia? Grazie, ciao. Ma ciao, ma figurati, un piacere. Selvaggia, io non so come definirti, tu sei un po' come me, non si sa mai come definirci, giornalisti, scrittori, conduttori, tu stai conducendo Glossip sulla TV La 3. Sì. Sì, sulla TV della 3 e poi sto scrivendo per A, per Libero, insomma, un po' di scheletro nell'armadio. Ma guarda, ma sì, ma tanto, finché ci fanno fare qualcosa facciamola, dai. Certo. Senti, allora, certo. Parliamo di gadget. Tu un gadget che ricordi? Un gadget estivo? Guarda, sì. Allora, Tommaso, ti confesso che io oggi ho lanciato un appello su Facebook, sulla mia pagina, e ho chiesto a tutti di dirmi quali erano i loro gadget. E ne è uscita una classifica esilaranti. Io ti dico qual era il mio, intanto. Sì. Poi, se vuoi, te ne cito qualcuno di divertente. Il mio era sicuramente quello che rimane nella mia memoria. Sono i pinzoni, hai presente i pinzoni di plastica, quelli con i fiori che sembravano una sorta di crisantemi di carta? Non li uso perché avevo i miei capelli ormai, però li ho presenti, sì. Avrei avuto una fidanzata che qua e là, un'amica, qualcuno che qua e là, insomma, ogni tanto. Io frequento persone di un certo livello, comunque andiamo avanti. Scusa. No, figurati. Scusami, no, dai, dai. Poi immagino che delle Crocs tu abbia parlato. Le Crocs, sì, sì, sì, figurati. Poi il Power Balance, che è quel bracciale di plastica, è uscito fuori l'anno scorso, non so se l'hai mai visto. Quelli sì. Quello con una specie di magnete che illude il possessore di avere più equilibrio, io non so che cavolo. Ma tu l'hai usato? Sì, me l'hanno fatto provare. E che cosa ne hai ricavato? Un cavolo di niente. Tu pensa che io la prima volta li ho visti in una specie di ristorante e li avevano tutti i camerieri. Pensavo fosse un gadget per, non so, mandare le ordinazioni, qualcosa. Sì, certo. Poi mi hanno spiegato che non era così. Cioè, beh, poi senti Tommaso, i costumi anni 80 sgambati, molto Pamela Anderson ovviamente. I capelli schiariti, quelli col Crystal Soleil. Non so se il gadget era il Crystal Soleil negli anni 80, non so se tu ricordi. No, no, ma io ricordo tutto, è tutto memorizzato qua dentro. Guarda, allora purtroppo. Tu ti spruzzavi questa specie di coso orrido e nell'illusione di diventare biondo platino tipo Brigitte Bardot. No, in realtà diventavi color biscardi, questa era la giusta punizione. Senti, visto che stiamo parlando un po' di cose vicine alla moda, sì, voglio farti sentire un pezzettino, una clip tratta da un film ormai mitologico. Ascolta e poi commentiamo insieme. Prima giornata, mattino. Tragico shopping con affannosa ricerca dei famigerati zoccoli del pescatore caprese che a Calboni donavano moltissimo. Io li adoro. Sai che la slanciano, ma riesci a camminarci? Sì, sì, signorina. Ci cammino benino. Ci cammino, io quasi... Tu hai mai portato degli zoccoli da pescatore caprese? No, però confesso di aver messo gli Hug, che sono quella specie di stivali pelosi. Ah, quelli dell'anno scorso? Sì, molto Paris Hilton, de noantri proprio. Senti, ma non c'erano nella tua classifica, tra gli oggetti arrivati oggi sulla tua pagina Facebook, non c'erano gli zoccoli del pescatore caprese di Fantozzi, no? No, quelli cavoli mancavano, guarda. Però c'è lo stivale infradito, perché nella burina, tipo me, che ce l'ho io ovviamente, no? Un po' centro-sud, lo stivale, quello infradito va molto, soprattutto bianco. Ma è giusto che sia così, perché noi che ci occupiamo di queste cose non dobbiamo fare gli snob, dobbiamo essere noi i primi a sperimentarle, non trovi? Assolutamente. Cioè, io ho postato anche la mia foto con lo stivale infradito. Ah, ecco, vedi, però senza vergogna, ormai sei senza vergogna. Senti, però c'è una cosa che sicuramente tu non avrai mai usato, c'è un'altra clip, guarda, questa è una cosa rarissima, penso non se la ricorderà nessuno e adesso te la faccio sentire, sveleremo qualcosa che forse era meglio non svelare. Ma perché non usi Teal Fly? Teal Fly, l'assorbente ascellare, facile da applicare, che protegge i tuoi abiti, invisibile, che non fa infeltrire la lana, morbido e pratico. Anche per gli indumenti di mio marito. Con Teal Fly, non più aloni né abiti rovinati. Cosa mi dici del Teal Fly? Possiamo parlarne perché non è più in commercio, giustamente, da ormai decenni. Ma come mai? Non riesco a capire. Ma io ho come cercato... Come mai abbia conquistato il mercato? Ma sai perché? Mi sembra di aver letto. Perché è nata l'aria condizionata in tutti i luoghi. Allora, spieghiamo cos'è il Teal Fly. Il Teal Fly è una specie veramente di tamponcino assorbente a forma di farfalla che tu applicavi sull'ascella della tua manica, della camicia, della maglia, e assorbiva il sudore ed evitava così la formazione degli aloni. Certo. In realtà non funzionava, perché poi diventava una specie di pastella, una cosa orrenda, per cui la gente... molto erotizzante, poi devo dire. Assolutamente, no? Assolutamente. E nell'81-82 ebbe questo momento di mai più senza. Oggi, per fortuna, ne facciamo sempre. A proposito di aloni sui vestiti, ce n'era una che io ho usato tantissimo, un gadget, diciamo così, un prodotto degli anni 80, che era la Lancaster. Non so se tu la usavi, la crema solare. Che era... No, io non mi abbronzo mai, per carità, figurati. Ah, ma neanche, ma come sei radical. Chic, no, io sono una brutta persona, che è diverso. Io invece, che mi abbronzo, modello, diciamo così, Carlo Conti, usavo questa crema solare che andava di moda e costava poi, tra l'altro, una cifra incredibile. E tu ti mettevi questa crema, in realtà ti colorava, ma poi ti facevi la doccia e ritornavi pallido, tipo Sgarbi, capisci? Quindi era una fregata, si appiccicava tutti i vestiti perché non se ne andava neanche. E era veramente un must negli anni Ottanta, la Lancaster, a proposito, il barattolo giallo. Senti, a proposito di Sgarbi, visto che tu sei anche un'appassionata di gossip, io ho visto ultimamente delle immagini di Sgarbi che si toglie la camicia dopo un brutto incidente in cui c'è la solita Marina Lante della Rovere, o come si chiama adesso, che gli butta un liquido addosso, e Sgarbi svela una abbronzatura da muratore, perché si vede proprio il segno della canottiera. Eh sì. sì. Ma certo, secondo te Sgarbi non va a Formentera, sta sul balcone a prendere il sole, cosa fa? Ma no, ma è un gramozzo, è stato sulle gondole, Venezia, capisci? Ah, quindi la canottiera da gondoliere, ho capito. Sì. Per fortuna ci sei tu che mi spieghi tutto, guarda. È la biennale, tutta la biennale, c'è sempre comunque una ragione culturale dietro anche all'abbronzatura da muratore, capisci? Sì. Senti Selvaggia, ma tu ti trovi bene in questo mondo in cui il gadget è stato smaterializzato, in cui non è più un gadget che tu porti in giro? Il nuovo gadget di questi tempi è la app. Quella che scarichi sul tuo iPhone oppure sul tablet e così via. Io non è che mi trovo così bene, cioè io voglio un qualcosa di concreto da toccare, da usare, una stagione e buttare via. Sì, no, a me che tristezza pensare che i nostri gadget si consumeranno così, su un iPad, sotto l'ombrellone, magari giocheremo a briscola online, a poker online, no, è una roba tristissima. Io voglio il gadget che poi non so dove mettere a fine estate, capisci? Ma come dove? Nella discarica, subito nella discarica, buttarlo no, via. No, nei cassetti, così. Ah, nei cassetti. Sì. Senti, comunque sei stata veramente un aiuto preziosissimo, ti ringrazio tantissimo. E poi vediamoci qualche volta di nascosto e facciamo il conteggio dei nostri gadget di cui ci vergogniamo. Va bene, senz'altro. Grazie Selvaggia. Ciao Tommaso, ciao, grazie. Ciao. Invece c'è Vito dalla provincia di Sondrio che non si vergogna assolutamente di quello che lui ha in casa. Vito? Ciao. Tu sei uno senza vergogna, leggo che hai una collezione di borselli. Ma sì, mi piace. Allora, prima cosa, il borsello lo usava mio padre. E quindi mi non cominciamo a dare la colpa al papà perché... No, mi piaceva, vedevo che c'erano dentro tutte le sue cosine via. Poi io non ho mai potuto usarlo perché, cioè, come insegna Elio delle storie tese, l'uomo col borsello è, certo. È lì, è lui. Però ultimamente hanno cominciato a uscire dei borselli belli, sponsorizzati piuuttosto che della Vespa, piuttosto che della Zip, per fare commerciali, proprio delle grip. Stai entrando nel tunnel del borsello, non ti sento più, ci sei? Ah, sì. Ah, ecco. Eccolo qui, è caduto. Bene, allora io voglio porre una domanda prima di farvi sentire una canzone. I borselli oggi sono diventate queste borsine che portano a tracolla tutti, dai bambini alle persone anziane. L'anno scorso ho visto il nostro presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che era in vacanza e aveva un borsello anche lui. Ma che cos'ha dentro il borsello il presidente? Mica ha le chiavi di casa, non avrà mica il cellulare. Cioè, che cosa può avere? Qualcuno mi sveli questo mistero che non riesco assolutamente a risolvere. A sorpresa, ve lo vi ho beccati a sorpresa, 2010, ne abbiamo parlato lunedì, però adesso l'avete anche sentita, la vuvuzela, detta le patata nella lingua originale, poi si è chiamata così. L'anno scorso tutti avevano una vuvuzela, questa trombettina di plastica che fa una nota soltanto, ma basta a disturbarvi per un'intera vita. E questo però spiega un po' perché alcune cose hanno successo e altre no. Perché la vuvuzela ha avuto successo? Perché è lunga solo 65 cm e potete portarla dietro. Voi immaginate l'Alphorn, sapete cos'è questo corno lunghissimo che hanno gli svizzeri? Come può diventare un gadget una cosa lunga 2,5 metri? Portarsela dietro è assolutamente impossibile. Mi spiace aver perso il nostro esperto di borselli, fatti vivo, abbiamo assolutamente bisogno di te. Adesso vi dovrei far sentire però un gadget molto particolare, perché i gadget esistono di due tipi. Il gadget che hanno tutti, infatti il titolo della trasmissione di oggi è "Ma ce l'hanno tutti", e il gadget personalizzato. Torna Gregoretti con un ricordo della sua vita ed è come al solito un ricordo straordinario. Ero uno stravagante di professione, mi ricordo che fumavo e una volta mi dotai di un accendisigari che consisteva nella tasca destra, avevo quei fiammiferi che si accendevano molto facilmente con le capocchiette multicolori che andavano di moda allora, e invece la pietra focaia era una tartaruga, una piccola tartaruga viva e vegeta, sul cui scudo osseo avevo incollato una striscetta di carta vetrata. Quindi mi mettevo una sigaretta in bocca, estraevo dalla tasca destra il fiammifero, dalla sinistra la tartaruga che zampettava nel vuoto, io gli strofinavo senza farle nessun male il fiammifero sotto la pancia, accendevo la sigaretta e questo alla fine divertiva le ragazze. Io ho sempre usato lo strumento del divertire. Oggi qualche animalista mi denuncerebbe, ma la tartaruga non aveva nessuna complesso. Si divertiva pure lei, secondo me. Nessuno ha chiesto il parere alla tartaruga, mi raccomando non chiamate adesso animalisti, noi vogliamo tanto bene agli animali. Grigoretti stava un po' scherzando. Io non specifico mai che si tratta di Ugo Grigoretti, il famoso regista, ha fatto cose meravigliose in televisione, ma io conto molto sulla vostra preparazione culturale, perché so benissimo che voi quando fate qualcosa non buttate via il vostro tempo magari andando in internet, ascoltando delle cose come quella che sentiremo adesso, che è tratta da certe televendite che vanno in onda, o se si può dire vanno in onda, vanno comunque in streaming sulla rete. Allora, lo spazzolino c'è, le ciabatte anche, ma come, avete dimenticato il caricabatteria del vostro iPod? Niente paura, il 2 USB port multisolar charger vi permetterà di caricare tutti i vostri gadget senza bisogno di corrente elettrica. Bel tempo permettendo. Ma che bel tempo permettendo, bisogna ricordarsi prima di tutto il nome di questo prodotto, io non ho capito assolutamente come si chiama e qual è anche la sua utilità, perché devo prendere questo prodotto se ho già un caricatore? Non si sa, questa è una signorina che incontreremo spesso, da qui in avanti, perché ha delle meravigliose cose da offrirci e da venderci. Penso ci siano delle macchie solari che stanno disturbando le comunicazioni, perché non riesco a ritornare in linea col nostro collezionista di Borselli. Sono disperato, veramente. Non so come fare. Non c'è il collezionista di Borselli? Va bene, allora vi faccio sentire la Hit Parade, perché come tutti i giorni anche oggi abbiamo una Hit Parade. Hit Parade! Numero 10, One Night Affair, Spargo. Numero 9, L'Artigiano, Adriano Celentano. Numero 8, Out Here, On My Own, Nick Acosta. Numero 7, Malinconia, Riccardo Fogli. Numero 6, Semplice, Gianni Togni. Numero 5, Chi fermerà la musica, Pooh. Numero 4, Donatella, Donatella Rettore. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. Oh, oh, oh, oh, bella. Numero 3, Amuro Solitaire, Lio. Numero 2, E invece no, Edoardo Bennato. Numero 1, Enola Gay, OMD. '81, questo è l'anno a cui risale questa classifica, non è un anno scelto così a caso, no, l'ho voluto perché nel 1981 ci fu l'esplosione del cubo di Rubik in tutta Europa, quindi anche in Italia. Vi ricordate quel cubo fatto con tante facce colorate che bisognava ricostruire? In realtà la prima idea venne a questo signor Rubik, ungherese, un ingegnere, nel 74, però per riuscire a farlo commercializzare ci mise un po' di tempo, ai noi. Fra l'altro questo cubo mi ricorda anche uno dei più grandi errori cinematografici. In Notte prima degli esami di Fausto Brizzi, e i protagonisti ce l'hanno sul tavolo, ci giocano, ma nell'89 non c'era già più, mio caro amico Fausto Brizzi. A 800 24 00 24 se avete ancora dei ricordi di gadget, ma io ho recuperato Vito da Sondrio. L'uomo col borsello. L'uomo col borsello che si è dato alla fuga. Allora, stavamo parlando del borsello di tuo padre. Sì, che era un oggetto misterioso, perché lì usciva di tutto. Tutte le cose di mio padre erano lì dentro. Ma tuo papà si chiama Itabeta, chi è, scusa? No, però da lì uscivano le chiavi, uscivano i soldi quando gli chiedevo il gelato, usciva tutto da lì. Ma è una meraviglia, ma è un borsello magico, l'hai buttato, che ne hai fatto? No, in effetti a pensarci bene era uno di quegli orrendi borselli, veramente, totalmente in cuoio, con la sua bella cinghia, con la fibbia, con le sue cerniere, era veramente una cosa adesso improponibile. Mentre adesso però ce n'è di carini, ce n'è di belli, io mi diverto, io ho recuperato due cose, il borsello, sì, e, perdonami, il moschettone. Il moschettone, ancora... no, scusa, posso mica ricordarmi tutto io ho bisogno di voi. Il moschettone, mi ricordo ancora benissimo, è successo un anno fa, aperitivo in un bar con amici, così. Ah sì, bello, strane queste scarpe, carine, però si intonano benissimo col vestito, sei sempre vestito bene. Però caspita, quel moschettone con le chiavi potresti evitarlo. Ma no, quello era il tocco dendistico principale, sì. Oh, a me piace, è comodo. Dove sono le chiavi? Qua, allora, sono qua. Vito, il moschettone, il cellulare è nel borsello, insieme ad altre cose, sono le sigarette, gli occhiali. Non so come faremo senza i te, sei veramente, ma Oscar Giannino al tuo confronto è nulla, è nessuno dal punto di vista vestitivo. E adesso ti lascio con una cosa che farà la storia della radio. Sei pronto? Pronto. La bella estate. L'ho detto, va bene la pallina click clack, va bene tutto, ma qui dobbiamo parlare di gadget particolari. Me ne dovete parlare anche voi, 800 24 00 24. Ora vi parlo di un gadget che nessuno conosce. Penso di essere l'unico, io insieme a Marino Chiena, che state ascoltando, e alla grande mente che tutto ha creato, Cristiano Malgioglio. Dopo l'uscita dai Ricchi e Poveri nell'81, la Occhiena cercò di rilanciarsi come cantante sexy e fece questo 45 giri al quale era incluso, state bene attenti, un cuoricino adesivo che dovevate applicare sulla vostra pelle quando vi abbronzavate al sole, eravate al mare. Dopodiché lo toglievate e sulla pelle abbronzata restava questo cuoricino chiaro. Un gadget che ha avuto un successo fenomenale, penso solo lei e Malgioglio lo hanno usato e poi li hanno buttati via. E il cuoricino era attaccato naturalmente sulla copertina del disco. Per fortuna poi Marino Chiena si è riciclata in una figura simpatica e materna quando andò all'Isola dei Famosi senza cuoricini, per fortuna. Abbiamo una persona in linea, Esther da Piacenza, che ci sta per svelare un nuovo mondo. Esther. Buonasera. Buonasera. Allora, io sono molto anziana e quindi ho dei ricordi molto lontani. Ricordo anch'io il giochino di cui lei parlava con sua sorella. Ah, però, vabbè, allora non è anziana. Io no, l'ho avuto. Sì, maestra, non è anziana. Pensavo mi parlasse, non so, del cerchio col bastoncino di Gian Burrasca. No, vabbè. Ha vissuto. E ricordo il tormento delle mie estati da bambina, che sì, erano le maglie dedicate alla canzone del periodo, in particolare quella che mi aveva fatto impazzire perché non me la volevano assolutamente comprare, era la maglia di una canzone tristissima di Domenico Modugno che si chiamava Piange il telefono. Esistevano, Esther, precisa, prego. Esistevano le magliette di Piange il telefono? Certo che sì, con allora, piena nuda. No, mandate un cartone animato e devo andare a cercare subito la maglietta da qualche parte, cioè non l'ho mai vista, ma è impossibile. Giuro assolutamente, con schiena nuda ho fatto impazzire mia madre, fino a quando un'amica di mia madre, presa dalla disperazione, me l'ha comprata lei e non me la voleva prendere perché era con schiena nuda e io non potevo girare da bambina con una maglia, allora, con una maglia con schiena nuda. Me la facevano portare con sotto una canotta, lo ricorderò per sempre. Sì, ma cosa c'entra la schiena nuda con la storia di Piange il telefono, che era tristissima, lui che si è ammazzato? Cosa bellissima, che c'era questa canzone tristissima. Bellissima, andiamoci piano con gli aggettivi, comunque dimmi. Cioè, su cui era fatta questa maglia che era Piange il telefono. Non ricordo se l'anno prima o l'anno dopo, sia che è la maglia di Yuppidù. E io tutte le estati dovevo avere una maglia dedicata a una qualche canzone. La maglia di Yuppidù la ricordo anch'io, ma ricordo ancora più le versioni taroccate che vendevano nei mercatini con i nomi finti, cioè Yuppidà, certo, perché non potevano usare quello originale. Immagino. Però io sulla maglia di Piange il telefono, giuro, non ce l'ho più, penso. Non ci lo stai so, piangendo ancora. Beh. Certo che sì, la vorrei. Vabbè, se la troviamo te la mando. Grazie, Esther. Va bene, grazie mille. Grazie, arrivederci. E adesso, mentre io mi riprendo da questa notizia shock, che non sapevo assolutamente della maglia di Piange il telefono, ascoltiamo un altro nostro amico che ci lascia i messaggi in segreteria. Lo scrittore Nicola La Gioia, che di solito è una persona serissima, ma sentite cosa faceva qualche anno fa. Qualche tempo fa, aprendo una scatola in cui butto da anni tutta una serie di oggetti che raccolgo di anno in anno, ma non a scopo collezionistico, ma proprio perché mi si stringe un po' il cuore a buttarli, ho ritrovato un gadget che andava molto 20-30 anni fa, ma io me ne ero completamente dimenticato, e praticamente si vendevano, soprattutto durante l'estate, questi braccialetti, queste collanine fatte di gomma, dentro la quale c'era un gas fosforescente, forse poteva essere, quindi erano fosforescenti, erano luminosi, ormai vero e proprio modernariato, ma la cosa che mi divertiva ripensando appunto a quel gadget leaky è il fatto appunto che non si sapeva appunto quali fossero le aziende che li producevano, non esisteva una pubblicità di questo tipo di gadget, quindi arrivarono un po' in Italia misteriosamente per 1, 2, 3, 4 anni e poi scomparvero, quindi ora non ne resta più traccia. E l'unica traccia che rimaneva, che rimane di questo gadget nella mia scatola è appunto un tubo vuoto, perché appunto è rimasto l'involucro esterno, ma il gas o chissà quale materiale fosse che lo rendeva fosforescente, ahimè, se n'è andato con quel periodo. Mi sa che gli è rimasto anche un po' di gas dentro, passato dal braccialetto alla sua psiche. Vabbè, sempre grazie a Nicola La Gioia. Adesso però parliamo un po' seriamente dei gadget, perché abbiamo al telefono una persona che sa veramente tutto di marketing. Bruno Ballardini, grandissimo esperto di marketing, a me sta molto simpatico, lo seguo appena posso. È stato autore ultimamente di Gesù e i saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende più, un libro uscito per la PM Edizioni. Buongiorno Bruno. Ciao a tutti. Allora, ti abbiamo fatto ascoltare tutto, anche le stupidate che ho detto io, perché voglio proprio che tu abbia un quadro completo dell'universo dei gadget. Maledizione, Tommaso, hai scoperchiato il vaso di Pandora. Purtroppo è così. Cominciamo subito dalle cose serie. Qual è stato il tuo gadget preferito? Devo dire, i gadget preferiti cambiavano di anno in anno negli anni 60, perché durante il boom economico c'era un consumo e un di superfluo spaventoso, poi è durato fino agli anni 70. Devo dire, la cosa più interessante erano i gadget irraggiungibili. Mi ricordo perfettamente, per tutti gli anni 60, questo imperversare di bombardamenti di paracadutini con gadgettino attaccato sulle spiagge del litorale dell'Adriatico, che, voglio dire, Milano Marittima, Riccione, sì. Cervia, eccetera. E noi bambini non aspettavamo altro che correre a chiapparne il più possibile. Ma cosa c'era attaccato poi? C'erano attaccati gadget, era la prima forma di marketing virale, cioè dei campioni omaggio di abbronzanti, profumi, eccetera. Poteva esserci di tutto. La cosa più interessante era si scatenava la caccia a chi ne acchiappava di più, perché poi cadevano anche in acqua. La cosa più invece preoccupante è che, a distanza di anni, ripensandoci, assomigliava tantissimo ai bombardamenti degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. In effetti gli anni 60 erano ancora abbastanza vicini alla fine della guerra. C'era ancora praticamente un effetto del piano Marshall per questi paracadutini che cadevano. Esattamente questo, sembrava un'azione benefica portata dall'amico americano che ci ammanniva con tutte queste novità del benessere e del consumo. Senti, ma prima parlavamo con Selvaggia Lucarelli di come ci sia dematerializzato anche il gadget, ma non solo, ma siccome non c'è più l'estate, non c'è più l'inverno, viviamo una stagione unica. Un tempo per me l'estate non cominciava con l'ingresso del sole nel Cancro, ma con l'apparizione di Mina che cantava negli spot di una cedrata, dicendo per voi e per i vostri amici. Se appariva Mina con la cedrata in mano era estate. Oggi non è più così, è cambiato quindi anche il mondo della pubblicità. Guarda, sta cambiando adesso in modo più inaspettato possibile, perché sta arrivando la realtà aumentata e quindi il gadget sarà composto non soltanto da un oggetto esterno ma anche da noi stessi, quindi che entriamo in relazione col gadget. È una cosa piuttosto preoccupante, perché dopodiché non si capirà più chi è il gadget e chi non è il gadget. Ci confonderemo con l'oggetto stesso. Ci confonderemo con l'oggetto. Diventeremo gadget anche noi. Senti, ma per promuovere un oggetto, qualcosa, un gadget d'estate, il marketing deve usare delle parole chiave particolari o no? Usa le parole chiave di quel momento, per cui noi siamo attentissimi a tutti i piccoli slittamenti, i piccoli paradigm shift, spostamenti di gusto e di immagine, eccetera. Per cui in realtà ci vorrebbe un omino che sta lì come era il lettore della CIA nei film di Redford, e ad osservare e a catalogare continuamente. In realtà usiamo degli stegisti che fanno da schiavi, come nell'ultima moda. Ma mi fai paura, questi scenari che mi apri sono più terrorizzanti ancora della maglietta di piangere il telefono. Bruno, no, in realtà è la realtà di tutto il mondo lavorativo italiano, quindi diciamo il gadget molto. Viene creato sempre meno da un certo punto di vista, perché è costoso, cioè si usa ormai ormai siamo arrivati al regalo aziendale come gadget. Ah, ecco. Bruno, ti ringrazio tantissimo, sei stato illuminante, anche se preoccupante, però almeno hai portato un po' di serietà in tutto il cialtronismo che sto diffondendo in questo pomeriggio di gadget. Grazie Bruno. Grazie a voi. E voglio fare un regalo, quasi in conclusione, voglio fare un regalo a Peter da Verona. Peter? Sì. Buongiorno. Sono. Allora, io leggo qui che tu ricordi un gadget di plastica, non sai il nome, una palla e due maniglie attaccate a dei fili su cui si faceva scorrere la palla da una parte all'altra. Beh, stai attento, senti questa cosina, senti. Coin Par Toys ha conquistato le palestre, le spiagge, ogni luogo di gioco e di vacanza. Coin Par Toys conquista tutti, grandi e piccini. L'autentico Going Par Toys non si rompe mai e dà la volgicorda. Ecco, si chiamava Going, l'avevo già preparato senza sapere che tu l'avresti chiesto. Scusa? Si chiamava Going, te lo ricordi? Sì, questo? Sì, ecco. Esatto, il Going, sì. Ma tu ci hai giocato? Fatto... Ci giocavi col Going? Ci giocavi? Madonna, ci giocavo, sì, ci giocavo moltissimo con i miei amici. Ho fatto un'estate intera a giocare a Going, praticamente. Un'estate buttate via. Vabbè, grazie comunque per averci chiamato. Abbiamo finito anche oggi, abbiamo finito, è stata una puntata da gadget, direi. Vabbè, ringrazio naturalmente in regia Mauro De Angeli, ringrazio in redazione Viola Bottoni che stanno già giocando con i loro gadget. Torniamo domani e parleremo di libri dell'estate, ma non pensate che sarà una cosa seria. Cominciate a scriverci sulla pagina Facebook La Bella Estate. A domani, ciao!